Elba, 18 luglio 1967. Care Eleuterio, stamattina sono sulla spiaggia, ma ho il mare di dietro. Sono rivolta verso la strada e vedo un panorama alberghiero. Ah, ora il mare l'ho davanti, Eleuterio. Mi sono girata. Sull'acqua un panfilo si dondola pigro. E io penso che il panfilo, in fondo, è una villa unifamiliare su un prato d'acqua. E penso anche che devi essere l'ultimo discendente di Barba Blu. Non si minaccia di uccidere la propria moglie solo perché poverina ha smarrito un anellino con un brillante. E sabato prossimo, quando verrai, riparleremo della cosa a lungo. Ricordati di prendere le vitamine, sempre tua. Roma, 19 luglio 1967. Inesplicabile, sempre mia. Il saperti sdraiata sulla sabbia a guardare il panorama mi innervosisce. Sarei molto più tranquillo se la sabbia fosse quella del deserto del Sahara e il panorama alberghiero un delizioso miraggio provocato dalla fame e soprattutto dalla sete. Hai ragione. Non si litiga con la propria moglie perché smarrisce un anellino con brillante. Si litiga quando si mette in testa di ritrovarlo per mezzo di sei ai tanti palombari, dato che l'anellino si è smarrito durante una gita in barca. E si litiga non con la propria moglie, ma con quel cretino di cameriere che si permette di toglierci lo spiedo dalle mani al momento più giusto. Pazienza, ormai è fatta. Eleuterio, ho scritto, mi sono ricordato di prendere le vitamine. Ora che le ho in tasca, che ne devo fare? Elba, 20 luglio 1967. Caro Eleuterio, mi ciucolo, vezzeggio e non vezzeggio. Ti gattifico il minimo indispensabile, come vedi. Sono qui, con il mare in basso a sinistra. Ti sto scrivendo dalla nostra stanza, che è più mia che tua, perché pur essendo matrimoniale, tu appena arrivi riparti, e allora è come se fosse singola. E dalla finestra di questo terzo piano guardo il mare e la gente felice al sole. E io penso che il sole non è altro, se vogliamo, che lo scaldabagno del mare, sempre tua. E non stare a pensare ai palombari. Roma, 21 luglio 1967, ineluttabile, sempre mia. Come faccio a non pensare ai palombari dopo quello che è successo? Dimentichi i particolari, forse, Eleuterio. Elba, 22 luglio 1967. Caro Eleuterio, micione, certo che ricordo i particolari. Eravamo a guardare il mare quella sera dalla finestra del salone. La pendola monologava il suo tic-tac. Fuori tempo con le onde e... Ci sono le stelle, Eleuterio. Le vedi? Certo che le vedo, sono presbite. Le vedo benissimo, che discorsi? Secondo te, che cosa sono le stelle, Eleuterio? Sono stelle. Arido. Io penso che siano le lampare del cielo. E tu sei cinico, brutto... È insensibile. Non senti la poesia? No, sento solo un certo appetito. Si mangia? Sì, ma prima devi parlare con il capitano. Con il capitano? Ma dico, siamo in un albergo o su un transatlantico? Siamo in albergo, caro, ma il capitano dei palombari è venuto qui per parlare con te. Senti, io non ho niente da dire ad un capitano dei palombari. Che vuole? Vuole il giusto compenso, Eleuterio. Ha lavorato, 3 giorni ha lavorato con i suoi 6 palombari per cercare il mio anellino. No, adesso non capisco più niente. Questi sono discorsi da incubo. 6 palombari che lavorano per mia moglie. Punto e da capo. I palombari hanno lavorato 3 giorni per cercare l'anellino. Quale anellino? Quello che mi regalò mamma il giorno che mi fidanzai con te. Senti, a parte il fatto che se anche la chiami mamma, tua madre resta sempre com'è, non migliora, se ti riferisci a quell'anello orribile con il sassetto colorato sopra, hai fatto bene a perderlo. Non potevo lasciarlo perso. Per me ha un valore affettivo. E allora ho fatto venire i palombari da Taranto. No! Sì, sono venuti con la nave e mi hanno fatto anche lo sconto. E tu hai fatto venire i palombari da Taranto con la nave e li hai fatti lavorare 3 giorni per cercare quello stupido anello. E loro sono venuti. Per loro il lavoro è lavoro. Anello sommergibile. Sempre di recupero si tratta. Vediamo se sono disposti a lavorare un giorno ancora allo scopo di recuperare te. Vediamo. Fermo, Eleuterio, metti giù la console. No, io la alzo invece. La metterò giù. Eleuterio. Solo quando avrò la matematica certezza di metterla Eleuterio. Giù nel punto esatto dove sei tu. Eleuterio, buono, Eleuterio, c'è gente. Eleuterio, che figura, davanti al capitano. Metti giù, aiuto. Chef. Vieni qui. Non vengo. Che ci fai con quello spiedo? Eleuterio, aiuto. Adesso stai per ritornare, Eleuterio, perché un sabato nuovo sta cancellando il venerdì che lo precede. E io che so perdonare, quando arriverai farò finta di niente. Ti correrò incontro e... Ciao. Ben arrivato, Eleuterio. Di là c'è il palombaro, quello che ha recuperato l'anellino, sai, oltre le spese previste per il lavoro. Avevo promesso un premio di lire 100.000 a chi... Una specie di taglia, Eleuterio.